cosa velocissima perché tra poco arriva mio marito. Oh, per carità. E quindi neanche dobbiamo c'è fargli scoprire che sta telefonando. Perché quando uno dice è argentino, allora balla il tango. Non è che tutti gli italiani sanno fare la pizza, eh? Ecco. Certo, no. Quindi chiamateci anche se avete un marito legno come me e quindi dovete restare a fare tappezzeria. Un vero uomo. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buon lunedì, cara Deborah. Com'è andato il weekend? Ti sei riposata, rilassata, depurata? Insomma, hai seguito almeno un po' i consigli di Cuore Denari oltre a mangiare le bacche di goji? Sì, sai che cosa ho fatto? Mi sono totalmente disintossicata dal caffè. Per 2 giorni non ne ho preso neanche un microscopico goccio. E quindi credo di essere stata brava, anche se non è che il fegato si lamentasse, perché da quello che so al fegato fa bene ogni tanto consumare del caffè. E quindi non ho sgarrato. Poi niente, una volta che mi sono data questa regola. Niente. Ma non guardarmi credo. Con quella faccia, perché comunque io ti prendo per buona e ti abbuono le scorribande, anche quelle che non hai fatto nel weekend. Facciamo una sanatoria. Brava. Allora sai che faccio? Che io tiro fuori tutte le tue multe arretrate e facciamo una bella sanatoria anche di queste. E una bella sanatoria come quelle che sta facendo il fisco, oppure una depurazione come quella che ogni tanto si merita il nostro fegato. Che ne dici? Abbiamo fatto una bella combinazione stamattina? Assolutamente magnifica. E allora partiamo. Salva Danaio. Acqua passata, quella che è stata. Acqua passata, quella che è stata. Come non importa a me, come non importa a me, chi c'è stata prima di me. Che te non importa a te, che te non importa a te, chi c'è stata prima di te. Non possiamo dire proprio così, cosa ce ne importa, perché invece certe situazioni del passato magari occorre rispolverarle. Adesso abbiamo anche una buona opportunità per farlo, perché ci sono buone nuove per chi ha qualche conto in sospeso con il fisco. Multe, cartelle esattoriali in arretrato, entra nel vivo la mini sanatoria delle cartelle fiscali, e così possono prendere fiato quei contribuenti in ritardo con il pagamento di multe, che potranno liberarsi dell'arretrato senza pagare gli interessi di mora. Potranno farlo entro il 28 febbraio, a patto che questo arretrato venga pagato in un'unica soluzione. Vedremo se questo potrà rappresentare in realtà un problema aggiuntivo. 800 24 00 24, se avete accumulato qualche arretrato con il fisco, fatevi sentire già da ora, perché oggi a Cuore Denari vi daremo tutte le indicazioni per fare pace con il fisco, risanando per così dire la vostra situazione. Allora salutiamo subito chi ci aiuterà a fare questo percorso. Rosanna Cerno, esperta fiscale per il Sole 24 Ore, che sarà con noi oggi per rispondere alle vostre domande. Dottoressa Cerno, buongiorno intanto. Buongiorno. Una domanda rapida, la prima per partire: sono già in tanti, secondo le stime che potete fare voi anche dai vostri studi commercialisti, gli italiani che hanno aderito a questa mini sanatoria? Onestamente no. Equitalia spera che saranno, diciamo, di più, ma ad oggi si contano circa 200 contribuenti, perché tra un po' lo vedremo. In realtà il pagamento da fare in un'unica soluzione sicuramente scoraggia molti contribuenti che in questo momento possono avere qualche difficoltà a pagare. Ci aiuta a capire come si fa a fare anche un calcolo, una valutazione di convenienza ad aderire alla mini sanatoria? Ci fa un paio di esempi di contribuenti con un po' di malloppo sul groppone, un po' di arretrato? Qual è in realtà, come dire, quella voce che si risparmia? Facciamo un paio di esempi con i quali magari si possono identificare i nostri ascoltatori, dottoressa Cerno. Sì, ovviamente il risparmio è più alto laddove la somma è più alta, perché è tutto proporzionato. Volendo fare un esempio, ecco, supponiamo che un contribuente non abbia pagato finora un IRPEF, quindi maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche, a seguito di contestazione dal 2006 per circa 8.000 euro tra imposte e sanzioni, quindi il dovuto è 8.000 euro per imposte. Diciamo che il risparmio potrebbe aggirarsi intorno ai 500 euro in questo caso, quindi dagli 8.000 euro si risparmierebbero circa 500 euro che sarebbero invece addebitati come interessi di mora e interessi da ritardata iscrizione a ruolo, perché questo è il risparmio. Quindi complessivamente su 8.000 euro 500 euro. Se avessimo invece un pacchetto di multe arretrate, esatto, non lo so, no, non guardo multe, esatto. Ad esempio, ecco, quindi supponiamo che ci sia anche una cifra un po' più bassa, sì, quindi una multa presa o più multe prese nel 2013, quindi a distanza di un anno, ecco, e per circa 300 euro. Qui il risparmio veramente è molto molto ridotto, perché si parla di 15 euro circa, perché ricordiamo che sulle multe il risparmio, come ha precisato Equitalia, riguarda soltanto gli interessi di mora. Comunque è chiaro che... Oppure mi scusi, anche per esempio un bollo auto, ecco, no? Che questo anche può interessare, quindi un bollo non pagato, sempre a distanza di un anno, supponiamo che il bollo sia di 500 euro, in questo caso il risparmio è di 30 euro. Immagino che però un'operazione di questo tipo non si fa per chi ha un arretrato di 100 euro, ma per chi ha problemi un po' più vistosi. Allora la dottoressa Cerno resterà con noi fino alle 12.30 per darci tutte le indicazioni concrete per liberarci, questo che abbiamo ribattezzato malloppo del fisco, che un po' ci avvelena la vita. Insomma, il fisco, Deborah, ci dà la possibilità di fare una cura depurativa, possiamo chiamarla così? Come quella che a volte ci verrebbe in mente di fare quando ci sentiamo stanchi oppure digeriamo male, avvertiamo una sorta di dolenzia sul lato destro della pancia, là dove sappiamo vive e lavora la ghiandola più grande del nostro corpo, il fegato, l'unico organo che è citato dai miti, tra l'altro, e che a differenza di altri, cara Deborah, è il solo che ricresce, pensa un po'. Il mondo, se poi diverso sembra di mattina, si dal giorno prima, dal giorno prima. E con il poco gusto amaro che fa schifo, chissà qual è stato quello che ho bevuto. E sono le tempeste, povero mio fegato, fegato, fegato, spampolato. Fegato, fegato, fegato, oggi una cura depurativa per cuore e denari all'800 24 0024, dalle cartelle esattoriali alle tossine che gioco forza dobbiamo far digerire, lo metto tra virgolette, al nostro fegato, che lo sappiamo è un grande lavoratore, instancabile, scrupoloso, non si lamenta mai, quando lo fa è proprio perché non ne può più, tende a ingrassare e anche a ingrossare, ha un caratterino tutto suo, gli salta spesso la mosca al naso, ama la vita regolare ma non insipida, gli piacciono la varietà e la misura. Parliamo di lui, è in linea con noi, abbiamo il piacere di avere il dottor Stefano Fagiuoli, che è direttore di gastroenterologia all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, ciao Nicoletta, è un piacere essere di nuovo con voi. Grazie. Dottore, al fisco abbiamo spesso qualcosa da restituire e lo possiamo fare con questa mini sanatoria che termina il 28 febbraio, quando sarà alle porte, ce lo auguriamo, la primavera, stagione del risveglio per antonomasia, ma anche la stagione giusta per organizzare un programma di depurazione. Ne sentiamo quasi il bisogno. Quando si parla di depurazione viene subito in mente il fegato, che tra le tante funzioni che svolge ha anche una sorta di filtro delle sostanze tossiche. È così? Le piace, dottore, questo paragone all'acquare denari? Ma direi proprio di sì, è certamente vero che l'azione di depurazione è una delle funzioni fondamentali che svolge il nostro fegato. In realtà un modo simpatico per definirlo è chiamarlo officina metabolica del nostro corpo, si occupa sostanzialmente di tutta la catena di eventi indispensabili alla vita, quindi riceve ed elabora gli alimenti che noi assumiamo, produce energia, che è quello che ci serve ovviamente, impacchetta e spedisce le sostanze necessarie a costruire o a riparare tutto il nostro organismo, e organizza l'immagazzinamento delle scorte energetiche che non utilizziamo al momento e soprattutto detossifica. La cosa che dobbiamo tenere sempre a mente è che tutto ciò che passa nel nostro intestino, quindi tutto ciò che assumiamo, passa attraverso il fegato, che lo deve elaborare con gli scopi più vari, quelli che abbiamo detto prima, ma soprattutto eliminare le sostanze tossiche o ingerite accidentalmente dei chimici o volontariamente, vedi l'alcol, o i residui alimentari che a volte di per sé creano dei sottoprodotti potenzialmente tossici dei quali il fegato deve occuparsi. Come tutte le officine, se la si manda in super lavoro rischia di incepparsi e quando si inceppa ovviamente le cose possono andar male, e sono molti i modi in cui questo può succedere. Ci può essere un danno diretto da un tossico, un agente tossico, che i funghi velenosi ad esempio. Certo. Un esempio sono i funghi velenosi, dei composti chimici, alcune erbe erroneamente considerate innocue, questo è un grosso problema, o l'alcol, che è sicuramente un potenziale tossico diretto nei confronti del fegato. Oppure un altro modo per ferire di superlavoro il nostro fegato è fornire un eccesso di calorie, carboidrati, ma soprattutto grassi, perché si mette a saturazione il livello di capacità di lavoro del fegato, e questo comporta una reazione normale, quindi certo, il fegato cerca di immagazzinare l'eccesso di scorte, e siccome è un organo molto generoso si immola per primo a difesa dell'organismo e finisce per infarcirsi di grasso, che alla lunga diventa un fattore di danno. L'equazione è piuttosto semplice, sì. L'equilibrio calorico risponde a una banale operazione matematica, il rapporto è tra quanto si mangia in termini di calorie, e anche la qualità, ci mancherebbe, e quanto si consuma. Quindi in questa officina metabolica non può non esserci l'attività fisica come aiuto fondamentale, quindi una vita sedentaria accompagnata da un eccesso di introito sia in termini di qualità che di quantità, e inevitabilmente ci faranno sentire dal nostro fegato. Queste cose le sappiamo tutti, ma io per primo tendo a dimenticare. 800 24 00 24, diteci come sta il vostro fegato, se ha preso qualche multa, perché anche se è un lavoratore instancabile, efficiente e scrupoloso, sappiate che ha anche i suoi punti deboli. Ne parliamo nel corso della trasmissione. Abbiamo intanto già molti ascoltatori che ci stanno chiamando, che ci stanno seguendo anche inviandoci messaggi al 349-238-6666. Vi ricordo che potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Allora, una serie di domande per la dottoressa Rosanna Cerno, per parlare appunto di questa mini sanatoria fiscale. La prima domanda, in realtà, che prendo a spunto, dottoressa, è da un SMS, perché c'è un ascoltatore che chiede se, anzi Sabrina da Modena, che ci chiede se la sanatoria è riferita solo alle mancanze, le definisce così, del 2013 o agli anni precedenti. In realtà le mancanze alle quali si riferisce questa mini sanatoria sono tutte precedenti all'ottobre del 2013, giusto dottoressa Cerno? Sì, esattamente, quindi sono sanabili tutte le inadempienze, precisiamo, di tipo fiscale, non contributivo, quindi previdenziale, quindi non contributi INPS e INAIL, perché questi sono esclusi, che sono stati affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, quindi debiti, diciamo, degli anni passati. Ecco, ha fatto bene a ricordare Equitalia, perché poi bisogna anche spiegare ai nostri ascoltatori chi evidentemente ha sollevato questo problema, quale ente e a chi ci possiamo rivolgere qualora volessimo aderire alla mini sanatoria. Sì. Un altro messaggio? No. Sì, aspetti, sì, volevo leggerle anche il messaggio di Alessandra, che secondo me così racconta un po' quello che è il pensiero di chi ha pagato con regolarità prende un premio ecco, solo del tra virgolette pirla. Queste sanatorie sono uno schiaffo agli onesti, dottoressa. C'è anche chi è rimasto indietro però per oggettive difficoltà economiche. Dottoressa Cerno. È svenuta la dottoressa. Guardi, condivido perfettamente quanto detto dall'ascoltatrice, perché diciamo appunto noi onesti ci troviamo in questa situazione. Però in verità dobbiamo dire questo, forse anche per questo è stata molto criticata quest'ultima sanatoria proposta dal legislatore. In realtà non è nemmeno corretto parlare di sanatoria o di condono, perché qui non si fa uno sconto obiettivamente su sanzioni o sul dovuto. In realtà, diciamo, come ho detto prima, facendo qualche esempio, si parla di un risparmio, a mio modesto avviso, insomma, molto stentato, perché riguarda soltanto gli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo, che sono interessi dovuti all'ente che è creditore, quindi alle agenzie fiscali o al comune, quindi è sugli interessi il risparmio. non è obiettivamente su quanto dovuto e su, diciamo, sulle sanzioni. Dottor... E poi, come giustamente diceva lei, magari non è soltanto qui, non si parla soltanto di chi non ha del furbo potuto. Che non paga 12 multe che ha preso così, ma ecco, c'è esatto, chi è anche magari chi non ha potuto finora pagare, e anche se onestamente ultimamente c'è stata anche la possibilità di fare delle buone dilazioni, esatto, su Equitalia. Quindi chi si vuole mettere in regola comunque... Su questo avremo tra un istante, dottoressa Cerno, una domanda per lei. Come capita, Nicoletta, sì, a chi vive... Al dottor Fagioli, ci sono persone che seguono uno stile di vita assolutamente sano, secondo le indicazioni che date voi medici, e quindi sono, tra virgolette, gli onesti, e poi improvvisamente si trovano a fare conti con delle malattie, e quindi da qui la, no, quando noi raccomandiamo ai nostri ascoltatori di mangiare bene, di muoversi, molti ascoltatori mi scrivono: sì, e così si vive da malati per morire sani. Dottor Fagioli. Beh, oddio, questo è un po' eccessivo, in realtà non è che si deve vivere da malati, è un po' il paradosso che abbiamo toccato un attimo fa nell'aspetto fiscale. È abbastanza curioso che noi adesso, più che a sanzionare chi non si comporta bene, pensiamo che possa essere utile premiare chi fa quello che dovrebbe fare, che è abbastanza curioso perché è un cambio culturale non da poco. Per il nostro corpo è lo stesso, vanno distinte due situazioni: c'è chi si comporta davvero bene in maniera ineccepibile e ha la sfortuna, per questioni genetiche, di predisposizione o semplicemente di incontro casuale e fortuito con un agente che gli può causare un danno, e sviluppa una malattia. Non la vedo troppo diversa da chi invece, o per questioni culturali o per questioni sociali o semplicemente per non adeguata conoscenza, non ha degli stili di vita impeccabili e questo gli comporta una malattia. Non definirei uno un delinquente medico e l'altro invece certo, un semplice sfortunato. Purtroppo la vita è anche un po' così, non sempre va come vorremmo, ecco. Allora, 800 24 00 24, per continuare ad interagire con noi su questo tema che abbiamo scelto questa mattina, le, tra virgolette, patologie del fegato, quando questo viene sottoposto a stress, capita spesso nella vita, ne parlavamo poco fa, oppure la mini sanatoria punto fiscale, che è questa nuova opportunità data a chi ha qualche arretrato, qualche pendenza con il fisco, può risparmiare se si regolarizza entro il 28 febbraio gli interessi di mora, e purtroppo poco altro, però insomma magari qualcuno ne approfitta. Allora sentiamo alcuni dei nostri ascoltatori. Con chi cominciamo, Nicoletta? Comincerei con Francesca, che ci chiama da Roma, all'800 24 00 24, e poi abbiamo anche dei messaggi da sottoporre al dottor Fagioli, che ha toccato un tasto molto delicato, quello delle erbe, che possono fare bene, ma alcune volte possono provocare dei problemi al nostro fegato. Quali sono? Perché effettivamente con quali ci possiamo imbattere e come dire, provocare questo danno al fegato anche a nostra insaputa. Francesca da Roma tocca un tema poco fa, come dire, parzialmente toccato anche con la dottoressa Cerno, il tema della rateizzazione degli arretrati col fisco. Francesca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io volevo sapere dalla dottoressa se questa agevolazione è prevista anche per chi comunque sta già pagando la geriti, però con la rateizzazione posso usufruirne. Grazie Francesca. Dottoressa Cerno. Allora, in realtà sì, però non so quanto convenga, perché comunque diciamo, per risparmiare questi interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo, quindi avere questo beneficio, la condizione è che tutto quanto dovuto ancora sia pagato in un'unica soluzione entro il 28 febbraio. Quindi questa è una valutazione da fare, diciamo, singolarmente a seconda delle proprie disponibilità e soprattutto delle cifre ancora da pagare. Lei a quali condizioni lo suggerirebbe? Magari Francesca ha poche rate da pagare, vuole liberarsi di questo peso, fa un conto di convenienza, appunto, e sana tutto entro il 28 febbraio. Se invece magari una rateizzazione... A quel punto forse sì, perché in quel caso sul residuo dovranno essere scomputati gli interessi di mora e descrizione a ruolo ancora dovuti e ancora gli interessi da dilazione. Quindi forse in questo caso sì, se le rate sono, diciamo, poche da pagare, l'importo non è altissimo, a quel punto forse sì, conviene. Certo. Andiamo a Giovanni da Roma? Andiamo a Giovanni da Roma che vuole parlare con il dottor Fagioli perché l'abbiamo stimolato sul pensiero della depurazione al fegato. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Eccoci a lei. Allora, ho una grossa steatosi epatica dovuta a due epatiti, una A fatta da adolescente, quindi anni, 16 anni, sì. E poi una B fatta inconsapevolmente, nel senso che io non ho accusato nessun disturbo. Ho un ex antigene Australia, adesso non mi ricordo come come è diventato positivo, sì. E ho questa grossa steatosi epatica, volevo sapere se poteva regredire con una dieta. Ho sempre fatto sport in vita mia, ho sempre corso. Sì. Allora, grazie per Giovanni che ci porta ad un tema che avremo trattato sicuramente dopo i mercati, la steatosi epatica. Ricordiamo, dottor Fagioli, diamo una definizione, è un fegato grasso, così lo chiamiamo noi, steatosi epatica in termini, il termine corretto per indicarlo. Sì, la steatosi in realtà vede due possibili ragioni. La prima è quella a cui abbiamo accennato, cioè un eccesso di calorie e viene immagazzinato come deposito e spesso lo viene sotto forma di gocce di grasso nelle cellule del fegato, che quindi si gonfia e si ingrossa. Però la steatosi è anche il primo segno di qualunque danno del fegato, causato da qualunque agente, che sia un'epatite virale, che sia un'altra malattia, che sia un tossico. Cioè il primo passaggio è che l'officina metabolica si ferma e si accumulano i materiali all'interno dell'officina, e quindi possono spesso coesistere queste due cose. Quindi è una sorta di campanello d'allarme. Assolutamente sì. Noi ci fermiamo qui perché è tempo dei mercati. Ritorniamo naturalmente a parlare di multe e delle multe che a volte inconsapevolmente appioppiamo con il nostro stile di vita, la nostra officina metabolica. Cuore e denari. Fate un bello caffè, eh? Caffè. Vabbè, signor, datemi la mia, va. Grazie. Tony, ne vuoi un po'? Per carità, è velino, tengo tutto il fegato spappolato. Non lo posso pigliare. L'abbiamo evocato ad inizio trasmissione, il caffè, eccolo qua. Io ho raccontato a Nicoletta di questa mia iniziativa disintossicante, chiamiamola così, del weekend, ed era da un po' che non lo facevo, proprio per due giorni completamente non ho neanche guardato la caffettiera. Dottor Fagioli, ho fatto bene per il mio fegato? Ogni tanto gli serve questa... Forse no. Ah. Forse no, ho addirittura, cioè, ma è possibile che non ne faccio mai una giusta? Perché? Ma può darsi che sia la vicinanza di Nicoletta. Dice lei che io intraprendo tutte queste iniziative di benessere, ma chiaramente ognuno deve farle un po' anche personalizzate, no, queste cose. Perché? Mi dica un po', mi è incuriosito. Allora, in realtà è un argomento ancora molto aperto, però ci sono forti evidenze scientifiche che il caffè non solo non faccia male al fegato, ma addirittura lo protegga. In realtà non è un quantitativo limitato, si parla di 3, 4, anche 5 tazzine al giorno, sembrano essere in grado di ridurre lo sviluppo di cirrosi e anche l'evoluzione a complicanze maggiori in chi ha l'epatite C. Però è anche vero che il caffè sembra ridurre il danno metabolico, quella famosa steatosi di cui parlavamo un attimo fa, nei soggetti che hanno colesterolo e trigliceridi elevati. E questo sembra persino più efficace in chi ha anche obesità e steatosi. Un altro aspetto paradossale è che sembra proteggere anche dai danni da alcol. Ora vorrei essere chiarissimo da subito. Non mi verrà mica la cirrosi epatica perché per due giorni non ho preso il caffè. Questo assolutamente no, però io vorrei proprio evitare di dare l'impressione che posso incentivare l'assunzione di elevate quantità di caffè corretti, perché una cosa elimina l'altro danno, esatto. E quindi la prima protezione è non fare il danno, quindi questo è l'aspetto. Dopo, i dati sul caffè sono interessanti e quindi è ragionevole anche proseguire quegli studi, ma insomma come primo approccio eviterei di danneggiare il fegato prima di imbottirmi di caffè per cercare di tamponare, ecco. Dottore, quindi Deborah può riprendere a bere il caffè sì. nelle nostre quello pause caffè sì. nel weekend, perché se poi si sacrifica troppo poi mi torno al mattino che arriva nervosa. Io le devo dire che invece sto molto meglio, mi è presa un po', sa, quella sensazione sulla testa da un po' d'astinenza, no? Un po' di certamente è una cosa ben descritta l'astinenza da caffeina. Succede. Senta dottore, allora il fegato di Deborah l'abbiamo sistemato, è assolutamente a posto, ma io vorrei tornare ad occuparmi di questo fegato grasso, della steatosi, che è un segnale con cui questa nostra officina metabolica dice insomma non ne posso più. Noi diventiamo magari rossi di rabbia, invece il fegato quando non ne può più diventa grasso. A questo proposito, è una condizione reversibile? Possiamo in qualche modo aiutare il nostro fegato a tornare, non dico magro perché non è il termine corretto, ma a tornare in equilibrio? Direi proprio di sì. Ne approfitto per completare la risposta all'ascoltatore di prima, che abbiamo lasciato a metà con la sua richiesta specifica. La sua epatite A non c'entra niente con la steatosi, deve capire se questa epatite B di cui mi ha parlato è attiva o non è attiva, perché può contribuire alla steatosi, ma le cose importanti da vedere sono se c'è un sovrappeso, se c'è ipertensione, se c'è diabete, se c'è alterazione di colesterolo e trigliceridi, perché quelli sono le spie che ci dicono che è facile poi trovare steatosi nel fegato. E quindi è chiaro che il primo fattore di correzione deve essere questo, cioè l'alimentazione, che deve essere riportata a un regime più corretto, e un'attività fisica. Questi in alcuni soggetti servono a riportare le condizioni a normalità. In altri soggetti servono a non farle peggiorare, perché ci sono altre condizioni, altre malattie del fegato che comunque seguono la loro strada e devono essere trattate, e non è sufficiente seguire questi accorgimenti. Un aspetto che credo sia importante da ricordare, perché a tutti viene in mente che chi ha fame ha sempre fame e chi mangia ha sempre voglia di mangiare, e c'è una spiegazione per questo, perché si innesca una specie di circolo vizioso per cui mangiando cibi ad alto indice glicemico, come si suol dire, resta un forte picco di zuccheri, una forte richiesta di insulina che deve distribuire gli zuccheri nei vari distretti del corpo, e ovviamente questo eccesso che viene immagazzinato. Ma il problema è che il picco di insulina fa avere una sorta di effetto rimbalzo con un calo glicemico, per cui torna fame e si innesca un meccanismo, un circolo vizioso, per cui a chiunque sia in sovrappeso, e vi garantisco che io so di cosa parlo, che quando cadano. Gli si dice mangi, dice no, ma io non mangio mica più del solito, mangio solo quando ho fame, il problema è che si ha fame sempre. Dottor Fagiuoli, io vorrei, dato che spesso si scopre di avere la steatosi per caso, allora diamo il profilo di chi tra i nostri ascoltatori potrebbe suonargli un po' il campanellino. Sicuramente lei ha parlato di sovrappeso, quindi qualche cosa che ha a che fare anche con la circonferenza addominale. Quei depositi di cui parlavo certamente finiscono nel fegato, e molte volte lo possono fare prima di dare a qualche altro segno, ma spesso o contestualmente o addirittura un po' prima finiscono in quello che noi chiamiamo grasso viscerale, e che in termini un po' più prosaici possiamo definire la nostra silhouette. Quindi sì, sicuramente quello è il primo segnale. Sì. La pancetta è un fattore di rischio senz'altro. Sì. Per avere, se avete la pancetta, forse anche il vostro fegato sta diventando un po' grassetto. Poi ci sono una serie di condizioni, sono quelle che ho citato prima, c'è un'alterazione dei grassi nel sangue, colesterolo e trigliceridi. Sì. Se c'è già una condizione o una forma molto precoce, ma c'è una familiarità importante per diabete, per ipertensione arteriosa, sì. Queste sono due condizioni sicuramente importanti. Chi è affetto già da queste condizioni dovrebbe verificare se non ci sia steatosi nel suo fegato, ma anche chi ha una forte familiarità probabilmente dovrebbe mettere in atto quelle regole di cui parlavamo prima, alimentazione equilibrata e attività fisica, proprio per prevenire quello che prima o poi si presenterà per condizioni di predisposizione. 800 24 00 24, se vi siete riconosciuti nel profilo tratteggiato dal dottor Fagiuoli, chiamateci, anche se avete di recente fatto degli esami per valutare la salute del vostro fegato. Io vorrei parlare anche di erbe, perché gli ascoltatori si sono veramente scaldati. Le varie tisane al tarassaco, carciofo, rabarbaro, liquirizia aiutano la depurazione del fegato? Se sì, in quali dose e con quale frequenza, dottor Fagiuoli? Allora, questo è un argomento veramente importante. Il problema delle erbe non è di erbe che facciano male e che quindi bisogna evitare, perché nessuno di noi volontariamente prende delle cose dannose. Il problema è che spesso, se si acquistano in posti non garantiti o non sicuri o addirittura su internet, ci possono essere all'interno dei composti che sono molto diffusi. Io ve ne cito qualcuno, però composti che contengono il chaparral, il jimbu one, la consolida, oppure la cascara sagrada, oppure il kawa o lo shouwupian. Sono tutti nomi strani che però hanno tutti un riscontro importante di potenziale danno epatico. E quindi è chiaro che affidarsi alle erbe pensando che, siccome sono naturali, non fanno male, è molto pericoloso. Bisogna affidarsi a persone che le conoscano bene e che siano affidabili. A quel punto ci sono dei composti la cui caratteristica principale è di essere degli antiossidanti, se vogliamo. Il principe di questi è il cardo mariano. Ecco, un altro, infatti, un citato dagli ascoltatori, sì. Sicuramente questa capacità. Lo stesso tè verde è sicuramente considerato un antiossidante protettivo, anche se qualche descrizione di tossicità c'è anche per quello. Il carciofo, chi non si ricorda le pubblicità di qualche anno fa? Sì, contro l'allegoria della vita moderna. Esatto, contiene dei principi fortemente protettivi. Gli agrumi, per il contenuto di vitamina C con l'effetto antiossidante, sono sicuramente protettivi. In questo un piccolo segnale: per agrumi è meglio parlare di arance e limoni piuttosto che di pompelmo. Il pompelmo ha la particolarità di interagire con moltissimi dei farmaci che noi assumiamo per le più svariate patologie, aumentandone fino a 9 volte la biodisponibilità e il livello nel sangue. Questo vuol dire che si può arrivare a livelli di tossicità con alcuni farmaci, se invece di prenderli col bicchiere d'acqua si prendono col pompelmo. Quindi un altro segnale. È sconsigliato in chiunque faccia terapie croniche. 800 24 00 24, non solo di erbe che possono avvelenare il fegato, ma anche di farmaci che possono davvero produrre danni, parleremo nel corso della nostra trasmissione. Fuori gli esami, pensate alla vostra circonferenza addominale, se è diventato un po' morbida, pensate anche alla salute del vostro fegato, soprattutto se i valori di colesterolo sono un po' elevati, se avete già la pressione un po' altina o familiarità con il diabete. Fuori gli esami clinici, dicevo Nicoletta, fuori anche le cartelle esattoriali qualora vogliate approfittare di questa mini sanatoria in corso e che si conclude il 28 febbraio. Parlavamo col dottor Fagiuoli di livelli di tossicità alti e poi abbiamo richiamato più volte questa mattina l'immagine del fegato grasso e grosso. Assist perfetti, perché anche in tema di fisco abbiamo dei bei pesciolini grossi e grassi da pescare. Nel 2013 sono stati individuati dalla Guardia di Finanza oltre 12.000 responsabili di reati fiscali e 8.000 evasori totali, persone completamente sconosciute al fisco italiano. Sono state avviate procedure di sequestro per oltre 4 miliardi e mezzo di euro al centro dell'attività delle Fiamme Gialle, evasione fiscale internazionale, economia sommersa, reati e frodi tributarie, quasi 52 miliardi sottratti alla tassazione del nostro paese. Dottoressa Cerno, già queste mine sanatorie fanno un po' sempre indispettire gli ascoltatori che dicono, ma insomma i contribuenti onesti devono sempre vedere queste persone che invece non sono totalmente allineate con il fisco, essere quasi riconosciute da queste operazioni di sanatoria. Non è che poi i grandi evasori potranno beneficiare anche di queste iniziative? Ma guardi, proprio di questa onestamente no. Se parliamo di condoni, di scudi, rientri di capitali dall'estero, le questioni sono diverse, esatto. Ma qui sinceramente vedo più una volontà intanto del fisco di fare cassa e quindi di invogliare ulteriormente quei quei debitori che magari hanno intenzione di pagare, di farlo, insomma. Mm. Cuore e denari. Eccoci, eccoci ritrovate in diretta, me e Nicoletta. Il pompelmo non ti è andato giù, dottor Fagioli? Non mi piace, non mi piace. Meno male. 800 24 00 24, oggi ci depuriamo, esatto. E inizierei a sentire che cosa ci raccontano i nostri ascoltatori. Debra. Allora sì, stiamo parlando della cosiddetta mini sanatoria fiscale per tutti quei contribuenti che possono rimettersi a posto nei confronti del fisco. Sentiamo un po' chi che cosa ne pensa Mauro da Milano, che è un po' allineato alle considerazioni già fatte da tanti ascoltatori anche con i nostri messaggi. Mauro, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì. Innanzitutto una piccola domanda: per chi sta tanto al telefono, se il fegato ne risente? Siete in tanti, Mauro, cosa dobbiamo fare? No, ma è così, è una battuta, no? Grazie, ci scusi. Mauro, le offriremo un buon caffè. Un buon caffè, visto che si può prendere e non fa. Nel senso che voi dice: guardate che se sta di tanto al telefono, il fegato ne risente, voi dice: ah, vabbè, allora vabbè, si mette in pace, il cuore in pace. No, la mia considerazione più che altro era questa. Io conosco molta gente, molti industriali che hanno grossissimi problemi in questi momenti, in questi anni, no? Quindi di conseguenza le prime cose cosa hanno fatto, oltre a risolvere quelli che sono i problemi di pagare i dipendenti, tutto quello che c'è da pagare, chiaramente sono rimasti indietro con cose, col pagamento dell'IVA, no? Sì, sì. Questo è abbastanza, non dico normale, però se vi sentite un attimino in giro la gente, questi piccoli industriali, piccoli, voglio dire, artigiani anche, la prima cosa che fanno sono queste. Allora io mi dico, no, ma che senso ha dare la possibilità a tutte di non pagare gli interessi quando questi hanno difficoltà in questo momento a tirare fuori i soldi per pagare? Cioè, voglio dire, è ridicolo questo, no? E io mi chiedo, ma questa gente che ha queste idee geniali, no? Ma ha veramente contatto con la realtà, Mauro? Mauro, verrebbe da dire, ha un bel fegato, Mauro, il dottor Fagioli commenterebbe. Che cosa possiamo dirle? Ha già sentito anche prima il commento della dottoressa Cerni, i professionisti sono totalmente d'accordo con voi, ritengono tutte queste osservazioni pertinenti, di fatto però si cerca di far cassa anche in questo modo e soprattutto agevolando magari chi ha un arretrato di piccoli importi. Dottoressa Cerno, è chiaro che chi ha un arretrato molto importante come l'IVA per piccoli professionisti, la questione è più difficile, no? Sì, lo dicevamo prima, in effetti secondo me occorre comunque, chi si vuole mettere in regola, puntare sulla dilazione, che rimane lo strumento più appetibile in questo momento. Tra l'altro, ammettendo, dottoressa Cerno, faccio una domanda da Alice nel Paese delle Meraviglie, che uno abbia un arretrato di IVA di 20.000 euro, faccio degli importi a caso, può sanare una metà e il resto rateizzarlo, oppure se sana deve farlo per tutto l'importo per il quale è in arretrato? No, assolutamente, le norme prevedono che chi vuole sanare in questo momento deve pagare tutto in un'unica soluzione per avere lo sconto degli interessi di mora e da iscrizione a ruolo. Quindi può capitare il caso che, come diceva l'ascoltatrice precedente, se una dilazione già è cominciata e quindi c'è un residuo da pagare, allora in quel caso sì, si può usufruire dell'agevolazione e pagando in un'unica soluzione il residuo, ma non si può fare il contrario, cioè un pagamento dell'IVA ancora dovuto, o si dilaziona oppure si paga tutto in un'unica soluzione per avere lo sconto degli interessi. Essere e benessere. Legò Prometeo dai vari pensieri con inestricabili lacci, con legami dolorosi che a mezzo di una colonna poi avvolse, e sopra gli avventò un'aquila ampia d'ali che il fegato gli mangiasse immortale, che ricresceva altrettanto la notte quanto nel giorno gli aveva mangiato l'uccello dalle grandi ali. Debra, questo di Prometeo è un mito che possiamo rileggere, se ben ci pensi, in chiave di cuore denari, perché ciascuno di noi ha la sua aquila, chiamiamola così, intesa come preoccupazione, che si fa sentire per il cuore, salute, benessere, per i denari. E poi ciascuno ha i suoi lacci, un po' come i lacci del fisco, che a volte percepiamo quasi come un cappio, come un condor che ci sta qua piazzato sopra la spalla. Se uno ci vede chiaro e ha la situazione sotto mano, però non rischia di fare altri danni. Dottor Fagioli, Deborah ce la serve su un piatto d'argento, perché il nostro fegato tante volte è ancora più insidioso del fisco, perché non si fa sentire, lei ce l'ha spiegato, e quando lo fa a volte un po' tardi e quando proprio non ce la fa più. Abbiamo parlato di steatosi epatica, di fegato che si ingrassa proprio per far fronte, per avvertirci in qualche modo che la sua sopportazione è arrivata al limite. Abbiamo invitato gli ascoltatori a chiamarci se rientrano nel profilo tratteggiato da lei, ma vorrei affrontare il tema dei farmaci. Lei ha sottolineato che i farmaci possono, e lo sappiamo tutti, possono anche danneggiare, appesantire il nostro fegato, e ci sono persone che per patologie croniche ai farmaci devono ricorrere per tutta la vita. Un ascoltatore ci chiede che cosa si può fare per proteggere il fegato dopo aver individuato i farmaci che per il fegato sono davvero un po' lesivi. Ma direi che la prima considerazione è che ogni farmaco passa attraverso il fegato, ma non dobbiamo essere terrorizzati dall'utilizzare i farmaci quando questi sono necessari. È solo quando c'è un fegato insufficiente, cioè con una malattia veramente molto avanzata, che c'è una difficoltà e un rischio di tossicità dei farmaci, ma questo rischio non è tanto che il farmaco possa ulteriormente danneggiare il fegato, quanto che un fegato insufficiente non metabolizza adeguatamente quel farmaco, i cui livelli nel sangue diventano tossici in generale per l'organismo. Per cui in generale anche un fegato blandamente alterato è in grado di metabolizzare molto bene i farmaci, sì. Per cui il primo comandamento è: i farmaci che devono essere presi perché hanno una corretta indicazione ci dicono che il bilancio tra costi e benefici in qualunque aspetto è a favore di prenderli. I farmaci che non si dovrebbero prendere, non mi chiederei neanche se fanno bene o male al fegato, non si dovrebbero prendere. Dopodiché sappiamo che esistono dei farmaci che danneggiano il fegato in una maniera molto semplice, dose dipendente. Il paracetamolo è il più tipico di tutti. La banale tachipirina, se noi la prendiamo a un dosaggio che nell'arco di 2 o 3 giorni supera i 10-12 grammi, quindi vuol dire 6, 8, 10 pastiglie nell'arco di 2-3 giorni, può diventare pericoloso per il fegato, specie se associato magari all'alcol o ad altre sostanze. E poi ci sono dei farmaci che hanno questo brutto vizio di dare delle reazioni che noi, con un termine medico orribile, come molti termini medici, chiamiamo idiosincrasiche, che è semplicemente la sintesi del concetto: ne prendi una e può essere pericolosissima quell'unica compressa, o perché sei intollerante o allergico, cioè ti succede la prima volta che la prendi, oppure può succedere anche con farmaci che hai preso tante altre volte nella tua vita, ma che in quel particolare momento, per una serie di coincidenze, causano questa reazione. E questo è il principale motivo per cui nel dubbio sulla necessità o meno se assumere un farmaco è meglio non prenderlo e accertarsi della sua reale necessità. Rassicuriamo gli ascoltatori che apriremo nella seconda parte, nell'ultima parte della trasmissione, una specifica sul pompelmo che tutti mi stanno scrivendo. Lo prendo vicino, lontano dai pasti, ma sono iperteso. Invece io lancio anche un altro suggerimento di un ascoltatore su Facebook per il dottor Fagioli, ma non solo: il mio fegato non mi dà problemi, ma collegando i due discorsi che state facendo stamattina, può lo stress da tassazione o lo stress in generale attaccare il fegato, e come? Cuore e denari. Mi so magna del fegato e me lo magno ancora, ogni volta che ripenso che tu sei la mia signora. Si mangia anche alla veneziana, lo sai cucinare? No. No? Non ti piace, ti vedo già dalla faccia che non sei da fegato. No. Eppure viene molto consigliato anche in alimentazione per chi ha magari certi problemi, che ne so, di carenza di ferro, no? Dottor Fagioli. Beh, potremmo raccontare un aneddoto, una nota di colore per spiegare che forse proprio perché lo chiamiamo fegato, è destinato ad essere grasso. Forse non tutti sanno che negli antichi romani lo chiamavano iecur, il fegato, che non c'entra niente con fegato, però siccome erano dei noti goderecci, rimpinzavano gli animali per i loro banchetti con i fichi, perché il loro fegato diventava molto prelibato e che infatti lo chiamavano iecur ficatum. Poi nel corso del tempo si è perso il nome originale ed è rimasto ficatum, cioè il fegato, e quindi probabilmente se continuiamo a chiamarlo fegato è destinato un po' ad avere il foie gras, forse a questa origine. No, lasciamo stare questi animali, è già una cosa terribile. Esatto. Dottor Fagioli, noi torneremo a parlare di Pompelmo, è una minaccia per i nostri ascoltatori. Guarda come punta il ditino, dottor. Ho il dito, è vero, non so perché mi è venuto. Sta lì puntando attenzione al Pompelmo. Allora, dottor Fagioli, apriamo la parentesi Pompelmo. Molto precisa la cosa. Allora, non sono molti i farmaci di cui preoccuparsi, sono alcuni antiaritmici, degli antipertensivi quali i calcio antagonisti, le statine per il colesterolo e gli immunosoppressori per i trapiantati. Queste sono le quattro grandi categorie per i quali fare attenzione. Sì, però alcuni di questi farmaci, dottor Fagioli, vengono presi da tantissime persone. Assolutamente. Quello che è importante sapere è che già dopo un paio d'ore dall'assunzione del Pompelmo viene ridotta l'attività di un enzima particolare che c'è sia nell'intestino che nel fegato, che è proprio quello deputato a detossificare i farmaci. E questa azione dura fino a 72 ore. Per cui in realtà non è da modificare l'ora in cui si assume il succo di Pompelmo. Quando si assumono queste categorie di farmaci non si deve assumere il Pompelmo, il succo di Pompelmo o il Pompelmo. Ecco, bevetevi una spremuta d'arancio, è semplice, no? Ecco. Eccola là. Così siamo c'è tutti. C'è una voce che dice che anche i Mapo potrebbero avere un impatto simile al Pompelmo, d'altronde c'è mezzo Pompelmo nel Mapo. E certo, diciamo Mapo. 800 24 00 24, Rudy se la ride. Lui sì, perché è rimasto colpito dal tuo ditino. Sei anche un po' spaventato, veramente, che eri un po' così. Lo ringraziamo perché in regia la parte tecnica, grazie oggi a lui andiamo in onda. Esatto. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori. Allora, aspetta da un sacco di tempo Pierluigi da Bergamo con i suoi centrifugati di sedano. Adesso glielo facciamo raccontare e poi ritorneremo anche alle nostre cartelle esattoriali con le quali siamo rimaste un po' in arretrato per capire che cosa possiamo fare. Saltate la barriera rosa per quindi ripulirci un po' di questo nostro pregresso entro il 28 febbraio. Ma andiamo a Pier Giulio, buongiorno. Che nome nobile. Grazie. Eccoci qua a lei. Ci dica tutto. Un po' complesso. No, la canzoncina mi ha anticipato sull'ultima cosa che volevo dire, mangiarsi il fegato. Quello è vero. Allora, ho acquistato, proprio per sentito del buongiorno anche al dottore. Buongiorno. Buongiorno dottore. Allora, una macchinetta, una centrifuga. Bravo. Mi ero sentito dire da un mio amico che aveva avuto problemi di fegato e tuttora è ancora in cura, no? Con questo fegato, che i centrifugati di sedano presi regolarmente aiutano a depurare il fegato e addirittura lo proteggono. Volevo sapere se questo è un po' una panacea di tutti i rimedi o se è solo un modo di dire. Ecco. No, è assolutamente vero, è stato utilizzato tantissimo nella storia quando non c'erano ovviamente altre forme di medicinali più strutturate, e per scopi medicinali è stato utilizzato addirittura la sua iniziale utilizzo era per purificare il sangue, poi forse era un po' eccessivo. Poi le indicazioni per le quali il centrifugato di sedano fa bene sono le più varie, probabilmente perché ha praticamente niente calorie, molte fibre e quindi alla fine riesce a dare un sacco di benefici dal punto di vista generale, ma anche per il fegato sicuramente. Quindi ha comprato una centrifuga, ha fatto bene, può fare centrifugati anche non solo altro, di sedano, ma anche altro. Carote, e quindi quant'altro. Bravo Pier Giulio. Noi centrifughiamo invece nella nostra possibilmente, se ci fosse la centrifuga del fisco, le nostre cartelle esattoriali appunto su situazioni pregresse. Ritorniamo alla nostra esperta di temi fiscali per il Sole 24 Ore, la dottoressa Rosanna Cerno, alla quale rivolgiamo immediatamente la riflessione, la domanda di Antonio da Catania, che saluta all'800 24 00 24. Continuate, se volete, appunto, a chiamare il nostro centralino, a superare la barriera rosa. Vi invitiamo a questo, appunto, per parlare di tutti i temi che vi abbiamo proposto quest'oggi. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno. Radioascoltatori. Senta, telefonavo per sapere se i condoni, intanto io credo che il condono non è una scelta politica giusta per un governo, anche perché perde di credibilità per i contribuenti. Anche perché Invece ne continuiamo a fare tanti, Antonio, su tanti. Vabbè, comunque. I condoni sono stati fatti ogni 10 anni mediamente in Italia. Le ultime legislature hanno fatto abbassare la media anche a ogni 6 anni. Visto che si passa ad Equitalia dopo 5 anni, quindi l'ultimo condono, la mia domanda era questa. Sì. Se l'accumulo dei debiti è fatto anche con l'Agenzia delle Entrate, comprendeva il condono. Perché se fosse solo di Equitalia, i 5 anni ancora dall'ultimo condono del 2009 non sono passati. Allora, Antonio, aspetti lì, andiamo alla nostra esperta, la dottoressa Cerno. Sì. Allora mi sembra di aver capito, cioè se il quesito dovrebbe essere questo, adesso non so se ho chiaro, cioè praticamente l'ascoltatore vuole sapere se le imposte non pagate negli anni precedenti possono essere sanate senza aver ricevuto Antonio, ancora la cartella di pagamento. Antonio, era questa la traduzione della sua domanda? Sì, perché le cartelle che abbiamo ancora oggi non sono passate con Equitalia e credo che il condono sia riferito alle cartelle con Equitalia, ma l'ultimo condono quindi è quelle, stato fatto sì, quelle per le quali c'è già stata una sollevazione del problema da parte dell'agente della riscossione. Ecco sì, qua. Intanto volevo correggere un attimo il tiro perché è giusto dirlo, non si parla comunque in questo caso di condono, questa è una definizione agevolata e comunque riguarda questa definizione agevolata o le cartelle di pagamento già ricevute oppure gli avvisi che noi chiamiamo avvisi di accertamento ricevuti direttamente dall'Agenzia delle Entrate che riguardano però i periodi di imposta, quindi gli anni accertati dal 2007 in poi, che noi chiamiamo accertamenti esecutivi, perché per quelli non ci sarà una cartella di pagamento. Comunque posso consigliare all'ascoltatore e a tutti gli altri che ci ascoltano che in caso di dubbio, e quindi se qualcuno ha dei debiti e volesse in qualche modo così fosse allettato a definire in maniera agevolata questa situazione, può andare benissimo presso gli sportelli di Equitalia, perché lì si dirà cosa è possibile sanare e cosa no. Comunque, ecco, non solo cartelle di pagamento, ma anche avvisi ricevuti direttamente dall'Agenzia delle Entrate, questi sì che possono essere sanati. Certo, che allora riguardino periodi d'imposta dal 2007 in poi. Al 31 ottobre 2013, ecco, non oltre, esatto. Questo ricordiamolo. Dottoressa Cerno, ci dà allora 2 indicazioni su, qualora avessimo fatto un calcolo di convenienza, come l'ho chiamato più volte questa mattina, abbiamo deciso di aderire a questa mini sanatoria, chiamiamola così, a questa facoltà che il fisco ci dà di chiudere con il passato, qualora tra l'altro avessimo anche la disponibilità economica, perché per molti contribuenti probabilmente questo non si potrà fare perché non ci sono le risorse. Detto questo, che cosa dobbiamo fare? A chi ci rivolgiamo? Se non vogliamo passare dal commercialista, ma credo che magari per certi casi complessi sarà necessario, quali sono i passi da fare? Ma guardi, secondo me non è necessario onestamente andare dal commercialista, certo, bisogna armarsi di tanta pazienza e recarsi presso uno sportello di Equitalia oppure per diciamo gli ascoltatori più avanzati tecnologicamente possono collegarsi al sito di Equitalia, registrarsi, avere quindi un PIN e vedere la propria situazione, perché è importante vedere il proprio estratto di ruolo, capire effettivamente a quanto monta il debito, perché magari possiamo pensare noi di avere un debito ma poi è diverso perché ad Equitalia risulta tutt'altra cosa, quindi è bene prima a mio avviso di pagare e di fare qualsiasi cosa comunque di andare presso lo sportello di Equitalia, capire effettivamente qual è la situazione, cosa è possibile sanare e a quanto monta il risparmio. Dopodiché entro il 28 febbraio se si decide di pagare occorrerà appunto tramite l'F35 o comunque diciamo pagare le somme dovute in un'unica soluzione e poi aspettare il 30 giugno 2014 quando Equitalia invierà una comunicazione dove dirà che tutto è andato bene. Quindi insomma, non ce lo dice immediatamente. Qu'Italia, no, che abbiamo chiuso tutte le pendenze, dobbiamo aspettare ancora, dobbiamo avere ancora qualche mese di fegato un po' nervoso. Perché bisogna attendere che il pagamento sia agganciato al debito sanato. Mm-hmm. Ecco, quindi bisogna fare molta molta attenzione, quindi per questo consiglio veramente di o farsi seguire o comunque andare giustamente presso lo sportello di Equitalia. E allora ancora 800 24 00 24, vi ricordiamo il nostro numero verde, un colore oggi perfetto, assolutamente azzeccato, perché parliamo di depurazione. Mm-hmm. Ci disintossichiamo. Alessandro ci chiama da Brescia e Andrea da Milano. Devo dare la precedenza ad Andrea perché è in linea da più tempo. Andrea, buongiorno. Buongiorno. Lei vuole parlare col dottor Fagioli perché vuole raccontarci che il suo fegato... Allora, torniamo sull'argomento steatosi. Sì. Io ho un fisico asciutto, un buon livello di attività sportiva, dieta mediterranea equilibrata. Mm. Ecco, ho la sfortuna di una familiarità nel colesterolo che è da diversi anni e oltre 200. Mi è stata diagnosticata una modesta steatosi. Io ho i famosi valori del fegato, alta, alta, gamma GT, fuori dalla norma, sì, fuori dai valori. Ecco, mi viene detto, non si può fare niente, bisogna tenersi i valori così. Io mi dico, ma è possibile una condizione di questo genere, che una persona sana, con una dieta equilibrata, debba tenersi dei valori tutta la vita fuori dalle norme? Allora cosa bisogna fare? Bisogna dimenticarsi un po' gli esami del sangue e dire sto bene, vado avanti in questa maniera? Certo. Andrea, giriamo la sua domanda al dottor Fagioli, perché Andrea è preoccupato, si comporta assolutamente certo bene, quindi non ha multe, ma poi alla fine arriva questo conto che è un po' salato. È un po' quello che dicevo prima, ci sono alcune condizioni che non dipendono dallo stile o dal governo del nostro stile di vita o non interamente da quello. Sicuramente nel caso di Andrea l'importante è approfondire il metabolismo degli zuccheri, che può avere uno di questi problemi o può esserci una familiarità. È importante approfondire se non ci sia una familiarità, una storia per ipertensione arteriosa, ma spesso ci sono delle condizioni in cui si presenta un'alterazione del fegato, come lui descrive, e noi erroneamente la imputiamo alla steatosi da alimentazione inadeguata o da sindrome metabolica, perché poi è quello di cui parlavamo prima con tutte le associazioni messe insieme. Però ci sono un sacco di altre condizioni del fegato, e prima io dicevo che qualunque tipo di danno al fegato passa comunque per un accumulo a livello dell'organo. Quindi se non gliel'hanno già proposta, ho il sospetto che una biopsia epatica per capire le caratteristiche davvero non tanto della steatosi ma delle condizioni del fegato debbano far parte del processo di valutazione, perché lì bisogna davvero entrare nei fini meccanismi anche enzimatici o di alterazioni a volte congenite, e perché è importante poter dare una risposta che può anche essere, stia tranquillo, è tutto, questo è il massimo che succederà, va tenuto sotto controllo in questo modo e il suo stile di vita probabilmente sta facendo questo, quindi probabilmente sta già facendo l'ideale per se stesso. Tutto questo perché bisogna sempre, per la salute, in questo caso oggi anche per il fisco, vederci chiaro. Ed è possibile, esatto, ed è possibile, infatti la dottoressa Cerno ci rimandava anche, no, a Equitalia, che Equitalia va cambiato il nome, ci scrive un ascoltatore, Francesco da Firenze, da Equitalia a Usuritalia. Ah, o Disequitalia, vabbè. No, tra l'altro, dottor Fagioli, ma la questione dello stress che si concentra nel fegato è plausibile secondo lei, anche quando dobbiamo così confrontarci con la quotidianità, con i problemi del fisco, con i problemi dell'economia di tutti i giorni che ci stanno stressando, soprattutto da qualche anno a questa parte in cui questa crisi ci ha messo davvero alla prova? Ma io la riporterei sdrammatizzando anche qui alla storia, ai detti popolari. Mm. Gli antichi consideravano il fegato il centro del nostro corpo. E da lì una serie di detti: avere fegato vuol dire essere coraggioso, essere bilioso vuol dire essere irascibile. Mi fa venire il fegato grosso? Esatto, avere il fegato grosso vuol dire che uno non ne può più, ed è curioso perché tutti questi detti in effetti potrebbero far sembrare che lo stress sia causa di danno del fegato. In realtà lo stress fa così tanti danni sulla nostra pressione, sul cuore, sul nostro equilibrio mentale, lo stomaco, l'intestino, qua, attitudini quotidiane, che credo che è una delle poche cose che direttamente al fegato non fa male. Forse induce delle alterazioni del nostro stile di vita, di ritmi, di quota di riposo, di equilibrio con cui mangiamo e facciamo le cose, che quello poi si ripercuote sul fegato, ma diciamo che in questo il fegato si difende abbastanza bene. Se avete fegato e volete superare la barriera rosa, potete ancora farlo all'800 24 00 24. Dottoressa Cerno, che cosa fa venire il fegato grosso ai commercialisti? Il proliferare di norme dietro alle quali non riuscite a stare anche voi, perché... Guardi, sì, sicuramente l'incertezza degli adempimenti, cioè l'idea anche che ultimamente, ecco, adesso da poco è passata la scadenza della TARES, e sappiamo, io vivo in una grande città come Roma, ho vissuto personalmente questa situazione, che i bollettini non arrivavano a casa, quindi la piena incertezza anche per chi è del mestiere di dover pagare, non perché sapere cosa e quando pagare. Abbiamo sentito anche i CAF nei giorni scorsi, ci hanno detto: state tranquilli, se il bollettino non arriva a casa non dovete pagare, pagherete quando arriva, però noi siamo sempre un po' in fibrillazione di non stare in una condizione di regolarità. Una domanda per lei, da Francesco, qua ci stiamo accavallando, concluda pure, dottoressa. No, dicevo, la cosa peggiore è proprio per i contribuenti anche che vogliono pagare, vogliono essere precisi e che non hanno la possibilità di farlo. Francesco da Caserta, rapidissimo, la ringrazio, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Barbara. Ascolti. Veramente sono Nico, ma se lei vuole chiamarmi Barbara, solo tra me e lei, ok, chiami Barbara. Chissà perché mi è venuto in mente. È emozionato, ma d'altronde la capiamo. Perché mi sta con queste due pezze di donne qua. ci dica Francesco, anzi tre, perché anche la dottoressa Cerno abbiamo. Sì, infatti prima della considerazione in merito a questa norma sulla rottamazione delle cartelle, io ho dei problemi, sono stato direttamente all'Agenzia delle Entrate e volevo evitare quelle che sono ovviamente i problemi più grossi, che sono le sanzioni e le more. 10 secondi Francesco, che dobbiamo chiudere. Mi interessa, così mi hanno detto che io devo aspettare prima le sanzioni e poi dopo praticamente, quindi non hanno compreso niente di noi italiani che abbiamo problemi col fisco, perché sono le sanzioni e le more che ci distruggono. Dottoressa Acerno, questa rottamazione delle cartelle, la chiamate, Francesco? È d'accordo con quello che dice? Sì, è quello che avevo precisato prima, infatti non è una rottamazione, non è una sanatoria, è praticamente un'agevolazione, una spinta per far pagare qualcuno sfruttando solo gli interessi, e le cifre sono basse rispetto alle sanzioni, sicuramente. Insomma. Certo, allora per tutte le vostre domande che non abbiamo potuto accontentare quest'oggi una risposta, scriveteci, Cuore Denari sempre aperto, cuoredenari@radio24.it, ricordiamo anche Nicoletta oggi, giorno della memoria, e quindi un grande pensiero anche a tutte queste persone che vivono questo ricordo. Ringraziamo anche il dottor Fagioli, oltre che alla dottoressa Cerno, e voi per il vostro ascolto. A domani.